238. Salami dal sugo di Ferrara. I salami dal sugo di Ferrara sono una specialità di quel paese. Hanno la forma di bondiole del peso di grammi 500 circa e sono di sapore piccante e appetitoso, a differenza degli altri salumi della loro specie. Migliorano invecchiando e ordinariamente questi si mangiano quando quelli hanno fatto la loro stagione. Allorché vorrete servirvene, lavateli diverse volte con acqua tiepida per nettarli da quella patina untuosa che li ricopre e metteteli al fuoco in acqua ghiaccia abbondante per farli bollire lentamente un'ora e mezzo soltanto, chiusi stretti in un pannolino onde evitare che la pelle schianti. Serviteli caldi con contorno come i coteghini, ma il sugo di cui si vantano talvolta non apparisce, o seppure non è molto copioso.